Intanto buonasera, ciao a tutti, io sono Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge e provo a dire qualche parola io, ma preferirei poi che poteste ascoltare Beniamino perché ci dirà delle cose sul libro e soprattutto la possibilità poi di dialogare un po' insieme, che mi sembra davvero molto importante perché già degli stimoli almeno a me me l'ha dato quello che ho ascoltato, chi mi ha preceduto. E non vorrei essere tra il novero di quelli che, anche io tra quelli che insomma con un po' di nostalgia raccontano di come hanno conosciuto Bruno e di come è stato Bruno determinante per la mia vita, per la storia anche che io sto vivendo, insomma anche per le scelte, diciamo così, visto che prima si parlava di scelte, delle scelte che ho fatto e sicuramente ho ritrovato anche la forza, la capacità, la determinazione per farle anche leggendo, facendomi attraversare dalla storia, dall'incontro di Bruno e non soltanto di Bruno, anche di quelli che hanno circondato Bruno e che hanno vissuto con lui determinate storie. Io Bruno non ho soltanto conosciuto, appunto, non l'ho conosciuto quando l'hai conosciuto tu, l'ho conosciuto successivamente e quindi ho vissuto con lui abbastanza bene anche in amicizia, diciamo l'ultima stagione della sua esistenza, pur conoscendo pezzetti della sua storia. Un po' in traluce, diciamo così, perché in seminario di Bruno Borghi non se ne parlava assolutamente mai, mentre di altri, a torto collo, comunque se ne parlava, ma di Bruno Borghi c'era la possibilità di non parlarne senza che nessuno si meravigliasse, diciamo così, ed era veramente sconosciuto anche a tantissime persone che, come me, io sono diventato prete negli anni 90, quindi che come me insomma hanno attraversato quella storia del seminario, quella formazione e che dove Bruno insomma non veniva mai raccontato assolutamente, neanche quando si parlava di Don Milani non veniva mai accostato, eppure insomma anche il rettore del seminario era amico in qualche modo anche di Bruno, comunque conosceva la storia di Bruno. Il mio rettore seminario in questo momento è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, quindi non è che sia uno che poi non abbia fatto, come dire, carriera ecclesiastica. Ecco. Però davvero, al di là di questo, io vorrei provare a partire da un testo che non è di Bruno, anche perché Bruno appunto, come per chi lo conosce, per chi sa, insomma, vi accorgerete, non ha scritto niente, nel senso non ha scritto niente che potesse essere pubblicabile come un libro, che ne so, o delle cose che potessero essere messe insieme, ma sono state trovate, penso anche Beniamino abbia fatto tantissima fatica, ma anche con piacere, insomma, e lui è stato accanto tantissime volte e hanno camminato insieme per tante stagioni, abbiamo fatto un po' fatica a recuperare testi scritti di Bruno, ecco, e di so che ha fatto fatica a farlo e anche a rimettere insieme delle cose che potessero essere un po', come dire, sistematiche rispetto al pensiero di Bruno, che poi viene fuori dalla sua azione, dal suo muoversi. E secondo me il titolo che è dato a questo libro è molto importante, è un titolo che vale la pena. Attraversarlo e capirlo e comprenderlo, questo titolo che appunto è Basta un uomo, che secondo me è un po' il punto d'arrivo anche della vita di Bruno, ma che è anche il punto di partenza nello stesso tempo. E vorrei leggervi un testo che secondo me, che sicuramente conoscerete, che però da lì vorrei provare a dirvi delle cose rispetto a Bruno, ma partendo da questo testo. Questo testo è una delle, direi, dell'ultima pagina, diciamo, delle ultime pagine dell'Uomo Planetario di Ernesto Balducci. E vi leggo alcuni pezzetti e poi vi dirò perché vi ho letto questo testo. Quando sento ripetere che il messaggio di Gesù è universale, perché egli è il Logos nel quale, dal quale e per il quale tutte le cose sono state create, una specie di immenso sbadiglio mi sale dal profondo, come dinanzi ad una verità resa vacua dall'abuso. Ma quando rifletto in silenzio sui gesti concreti con cui egli, mettendosi contro gli uomini della religione e del potere, andò incontro ai poveri, ai miti, agli afflitti e ai perseguitati, è come se scorgessi nel buio un sentiero di luce, il sentiero che ancora oggi discende alla profondità degli inferi, dove il senso e il non senso, la vita e la morte, l'amore e l'odio si confrontano. Qui tutte le identità perdono di senso per lasciar posto all'unica che ciascuno è in grado di dare a se stesso, al di fuori di ogni eredità, semplicemente con l'assumersi o con rigettare la responsabilità del futuro del mondo. Se noi lasciamo che il futuro venga da sé, come sempre è venuto, e non ci riconosciamo altri doveri che quelli che avevano i nostri padri, nessun futuro ci sarà concesso. Il nostro segreto patto con la morte, a dispetto delle nostre liturgie civili e religiose, avrà il suo svolgimento definitivo. Se invece noi decidiamo, spogliandoci di ogni costume di violenza, anche di quello divenuto struttura della mente, di morire al nostro passato e di andarci incontro l'un l'altro con le mani colme delle diverse eredità, per stringere tra noi un patto che bandisca ogni arma e stabilisca i modi della comunione creaturale, allora capiremo il senso del frammento che ora ci chiude nei suoi confini. È questa la mia professione di fede, sotto le forme della speranza. Chi ancora si professa ateo, o marxista, o laico, e ha bisogno di un cristiano per completare la serie delle rappresentanze sul proscendo della cultura, non mi cerchi. Io non sono che un uomo. Ecco, voglio partire da qua, perché mi sembra che qua ci sia tanto di quello che è il senso, diciamo, di questo libro, di questa cosa che fortemente ho voluto, che sapendo che Beniamino stava cercando da anni di rimettere insieme tutti i pezzi della storia che aveva vissuto con Bruno, della storia di Bruno, anche a prescindere dalla sua amicizia. E per me era molto importante che questo testo potesse in qualche modo riuscire a far sentire questo processo che io ho sentito, perlomeno negli occhi, negli sguardi, nelle parole, nelle domande, nell'incontro con Bruno, che Bruno ha vissuto nella sua storia, fino ad arrivare a questo processo, come dire, di spogliazione, a questo processo di togliersi di dosso tutte quelle identità frammentarie che rischiano poi di rendere la nostra vita una vita di accettazione, di non responsabilità rispetto al futuro del mondo, come dice qui Balducci, e continua a vedere nel nostro mondo tante persone si indignano, ma con poi una rassegnazione che continua a attraversare ognuno di noi, e vedere invece in Bruno questo processo che lo porta davvero a spogliarsi tutte quelle che sono le sue definizioni, anche le sue il suo riconoscersi in alcune strutture, non aver più bisogno, che posso dire, della Chiesa, non aver più bisogno neanche quasi delle interpretazioni anche su Gesù di Nazareth, andare all'essenziale e arrivare ad essere un uomo fino in fondo e nient'altro e nient'altro che un uomo. Ecco, invece di essere rappresentante di qualcosa e di qualcuno. E secondo me questa storia riesce a far sentire, questo libro, scusate, riesce a far sentire questo processo, a questo percorso, che è un percorso, secondo me, necessario. Per questo, secondo me, questo libro è molto importante, perché fa vedere, rilegge, come dire, un pezzo di storia importante di Firenze, della Toscana, direi anche, che poi si allarga in qualche modo anche alla nostra storia contemporanea come italiani in Italia, che è accaduta appunto a Firenze e che è stata sicuramente già raccontata, ma che riesce a essere letta con una luce diversa perché è attraversata dagli occhi, dal pensiero e da quello che è stato Bruno Borghi dentro a questa storia. E ce la fa vedere in maniera completamente diversa. E ci fa vedere di come questa storia è stata davvero determinante e di come Bruno Borghi è diventato, e non a caso in questa storia spesso Bruno Borghi non viene moltissimo ricordato come tanti altri, è stato secondo me invece un protagonista assoluto, ma non per essere protagonista perché contasse, ma proprio perché in qualche modo il suo sguardo era uno sguardo dal di dentro, spogliato dall'identità, un'identità precisa. E questo secondo me è stato straordinario, perché la lettura di Bruno Borghi di quella storia all'interno e anche successiva, rileggendo quella storia, è una lettura secondo me più autentica, perché è una lettura dove Bruno Borghi, diciamo così, è stato capace di pagare anche un prezzo per le sue scelte, dove Bruno Borghi ha vissuto dal di dentro certe cose. Mi ha detto prima una cosa che mi ha colpito molto e secondo me è molto importante. Questo libro è importante secondo me leggerlo, perché Bruno Borghi in questo libro si vede benissimo che vive questo appunto processo che lo porta, che aveva già in nuce dentro di sé, come si vede nelle prime pagine, appunto uno che come lui, conoscendolo insomma nel di poi della sua vita, diciamo così, che ascoltando un prete poi decide, così sceglie appunto, io devo andare a fare il seminario, quindi sentendo parlare dei poveri, della povertà, sente questa spinta, no? Diciamo così, quindi ce l'aveva già, però questa capacità di stare dentro le cose, di starci dal di dentro nelle cose, di non stare a guardarle, di non leggere il mondo da una finestra oppure dalla propria identità personale, oppure con il proprio vestito, con la propria funzione, di saperla leggere pulita, spogliata da questa dimensione, è una delle cose fondamentali, perché quella lettura porta in sé una verità molto più forte, molto più autentica, molto più vera, perché è una verità dal basso, è una verità spogliata da tutte le determinazioni, come dice, o rappresentazioni, come dice qua Ernesto Balducci. E credo sì che questo dia un valore aggiunto, diciamo così, a quella che è la storia che ci viene raccontata. Per me questo è una cosa davvero molto, molto, molto importante. Vedete, io credo che questo libro appunto è importante perché ci dà ragione di un pezzo di storia molto importante, dove delle persone a Firenze, delle persone hanno davvero vissuto questa cosiddetta germinazione fiorentina molto importante, ma è soprattutto importante perché ci dice cosa noi ancora possiamo fare in questa nostra storia. Ha una grande attualità questo libro, perché ci dice come bisogna, non cosa bisogna fare, ma come bisogna essere. Ed è Bruno che ci indica la strada. Io sono molto grato a come è stato costruito questo libro, e via via che lo rileggo mi accorgo sempre di più che vengono fuori quelli che sono gli elementi anche ad oggi importanti perché noi si possa costruire una storia altra, perché si possa reagire di fronte all'inevitabile, all'ineluttabile. È vero, io quando leggo questo libro, quando lo rispolvero, quando mi trovo anche in qualche modo a dover dire qualche cosa e quindi vado a riprendere delle cose, poi l'ho letto, riletto, ho avuto la fortuna e anche la possibilità, insomma, anche di vederlo crescere, insomma, e quindi di averlo letto, di aver dovuto togliere delle cose che forse ci dovrebbero essere ora, ripensandoci, delle cose che qui in questo libro non ci sono e che sarebbero state importanti, ma avrebbero costruito un volume di 500 pagine, non sarebbe stato leggibile da una persona così normale che vede in libreria un libro con 500 pagine, viene male magari soltanto a cominciare, ecco. Però davvero, vedete, io credo che anche di fronte a quello che ci sta accadendo, anche di fronte a quello che veniva detto prima, molto spesso abbiamo una grande capacità di lettura delle cose, siamo indignati rispetto a quello che ci capita intorno, però spesso non sappiamo cosa fare e spesso ci prende questo grande, come dice qui Balducci, un po' questo grande sbadiglio, no? Che accompagna poi, che si accompagna a un'indignazione passiva che poi diventa in qualche modo una sorta di rassegnazione, di adattamento a qualche cosa che non ci piace, ma pensando che non si possa fare altrimenti. Ecco, in Bruno Borghi invece in questo libro si vede con chiarezza che rimane qualche cosa, che si incide sulla realtà quando si è autentici, come è stato Bruno. Si è capace di spogliarci delle proprie identità. Quando non si sposa una causa per far bene alla nostra azienda di riferimento, ma soltanto per far bene a quell'uomo che abbiamo incontrato, o a quella realtà, o a quella situazione che abbiamo incontrato. La radicalità con cui dovremmo riaffrontare le cose, che si legge benissimo in Bruno, questa capacità di essere radicale fino in fondo, la fermezza, la determinazione di Bruno, nello stesso tempo la tenerezza e la dolcezza nella fermezza e nella determinazione che Bruno aveva. Questa tenerezza immensa, ma senza perdere niente della verità che portava con sé, una verità che era sporca di polvere, di contatto con la realtà. Cose ancora necessarie in questo momento. Noi pontifichiamo troppo l'indignazione che proviamo e non riusciamo a dare percorsi, a dare percorsi di speranza e di rivoluzione, di sovversione di un sistema che è assolutamente inaccettabile. E Bruno ci dà delle strade, ci dà delle indicazioni. Io non penso l'abbia premeditata questa possibilità, ma mi verrebbe da dirglielo ora se fosse ancora vivo. Guarda, mi verrebbe da dirgli grazie non tanto per quello che hai fatto, ma per come l'hai fatto, per come sei stato nel farlo, per come hai letto quella realtà. Mi ha insegnato il processo per poter leggere la realtà, mi ha insegnato a trovare la forza per poter contrastare quella realtà. E là prima di tutto spogliarsi, poi della propria identità personale o dell'identità riflessa, funzionale che ti viene data, stare dentro le cose, mettere radici, nello stesso tempo camminare con gli occhi, muoversi dentro le cose e aggiungere a questo tanta tenerezza, fino a che rimane poi l'umano, la capacità di essere umani e di restare umani fino in fondo. Il tutto condito da un altro elemento che può sembrare così banale, che è una delle cifre fondamentali, scusate se faccio questa, anche del testo biblico, del Dio di Gesù, se volete, che è la capacità di ascoltare. Di ascoltare. E avevo tanto timore quando Bruno mi domandava delle cose, era molto curioso sulla situazione, su quello che vivevo e che sto ancora vivendo, alle piagge, per esempio. Molto, molto curioso. Faceva tantissime domande. sulla Chiesa, su quello che mi accadeva, su come mi muovevo, su come anch'io facevo, tra virgolette, l'operaio, perché pensando a Bruno devo virgolettarlo per forza. E mi ricordo ancora questo senso di timore nei suoi confronti, perché e questo richiamo a non essere mai né banale né scontato, perché sentivi che lui ti ascoltava e che ti avrebbe detto quello che sicuramente nell'ascoltare pensava, che poteva anche non essere gratificante, ma che era utile, importante. Ricevevi nello stesso tempo, come diceva una persona che a me è stata molto importante per me, che tra l'altro è stato anche amico di Bruno Borghi, che era un prete, anche lui, Don Serafino Ceri, uno schiaffo e una carezza nello stesso tempo. E questa capacità di riuscire a leggendo questo libro, secondo me, si ha la capacità di poter rileggere quella storia importante di Firenze per poter con gli occhi di qualcuno che l'ha vissuta, come vi ho detto. Ma dall'altra parte, leggendo questo libro, si sente la necessità di poter avere uno sguardo altro sulla realtà, la necessità di partecipare in maniera attiva a un cambiamento che diventa assolutamente indispensabile, e di esserne protagonisti con queste caratteristiche, le caratteristiche che io ho ritrovato in Bruno quando era vivo e che ho ritrovato in questo testo quando ci è stato consegnato nella messa insieme di Beniamino, che ora ci racconterà magari il lavoro che ha fatto e quali sono le direzioni che ha voluto dare a questo testo, o ci dirà quello che gli pare a lui, che mi sembra molto meglio. Grazie.